Va bene, allora, ciao a tutti e a tutte, ciao ai miei amici in collegamento, chiunque altro ci sia. Dunque, noi abbiamo immaginato questa iniziativa già da ormai credo un mese e mezzo, abbiamo avuto diverse difficoltà logistiche, diciamo, e in ultimo anche quelle offerteci dal governo con l'ultimo dispositivo. Immaginavamo che ci fosse la chiusura, ma hanno voluto mantenere ugualmente questo incontro, per cui siamo in qualche modo costretti a fare un'iniziativa che vorrebbe anche essere di critica alla digitalizzazione della scuola attraverso questo mezzo digitale. È un po' surreale, ma questi sono i tempi, ecco. E quindi il tema è un po' la scuola, il modo in cui sta funzionando oggi, come sta cambiando, cosa è successo negli ultimi mesi nel lockdown, nel primo, diciamo, della scorsa primavera e poi anche adesso, come ulteriormente si stanno modificando alcune cose. Abbiamo conosciuto i lavori dei Franti precedentemente al Covid, diciamo, attraverso alcuni loro testi che sono tutti disponibili sul loro blog, franti.noblogs.org, e diciamo che la cosa da cui volevamo partire è un po' la loro analisi fatta in un testo che è anche qua disponibile in distribuzione, fotocopiato. Che è un po' un'analisi a 360 gradi dell'istituzione scolastica, sia della sua storia, sia del suo ruolo nella società e anche degli ultimi 20-30 anni di aziendalizzazione che sono stati, come questi hanno contribuito a trasformarla ulteriormente. Quindi sicuramente queste sono alcune delle questioni che vorremmo affrontare e poi ovviamente anche come quello che sta cambiando oggi, sia in termini di digitalizzazione, sia in termini di tentativi di cambiare o di introdurre degli elementi nuovi nel contratto, come questa cosa si colloca in continuità, noi pensiamo, ma discutiamone, rispetto ai cambiamenti di cui parlavamo rispetto agli ultimi decenni, insomma. Ora, diciamo che sicuramente in questo periodo di lockdown, di epidemia, la scuola è stata molto al centro dell'attenzione, è stata la prima istituzione a chiudere completamente, è stata al centro del dibattito istituzionale sul finire dell'estate e anche in questo periodo per il modo in cui funzionava. È anche abbastanza indicativo secondo noi al di là di quello che si può pensare sulla chiusura o meno, che una delle ragioni per cui la scuola oggi ormai no, però in questi mesi è stata aperta nelle modalità in cui ha funzionato, una delle principali ragioni è che fondamentalmente l'ha voluto Confindustria. Bonomi a fine agosto ha detto abbastanza chiaramente che voleva chiarezza da parte del governo sulle sue intenzioni sulla scuola, fondamentalmente pretendendo un'apertura, poi magari capiremo perché. Visto che è un po', secondo noi, complicato, almeno non siamo molto abituati a fare discussioni, iniziative in questo modo, pensavamo che l'attenzione rispetto a una modalità di questo tipo, piuttosto che quella, diciamo, in presenza, usando l'espressione di moda ultimamente, sia più difficile, il livello di attenzione può essere più minore, insomma, pensavamo di impostare la cosa con con alcune domande che poi sono principalmente quelle che sono anche nella locandina, ecco. Per cui vabbè, inizierei intanto con magari se avete voglia con una vostra autopresentazione in qualche modo e poi la prima domanda da cui volevamo partire è un po' che cosa è successo appunto diciamo dagli anni 90 in poi, dalla fine degli anni 90 in poi, in questo processo che definiamo di aziendalizzazione, di privatizzazione dell'istituzione scuola e università, l'ingresso delle aziende e le varie riforme che ci sono state e come questo in qualche modo sia un presupposto per poi comprendere quello che sta accadendo oggi. Vi passo la parola, aggiungo solamente che, come diceva Tommaso, l'iniziativa è registrata, molto probabilmente credo verrà poi inserita, come spesso fanno loro, nel blog credo di Lost, Lunghe Ombre della Scienza e della Tecnica. Quindi ogni intervento è registrato, se qualcuno non avesse piacere di essere registrato, magari un secondo prima stoppiamo la registrazione, fa l'intervento, la domanda, quello che è, e poi riprendiamo. Io direi che prima di passare all'introduzione vi passo la parola. Ecco, incomincio io. Ciao a tutti, intanto sono Tommaso. Effettivamente è un po' strano vedersi in questo modo. Vabbè, insomma, cerchiamo di fare il buon viso. Voglio inizialmente, per chiudere lì, ringraziare l'UNIT e il collettivo Autistici che ci permette di fare questo streaming senza essere vincolati dalle piattaforme quelle mainstream o in qualche modo in mano, diciamo così, al dominio del capitale, che sono quelle gli unici veramente che stanno facendo quattrini in questo momento. Franti è un collettivo misto che nasce intorno al 2016 forse, direi 2016, che vede la convergenza di un gruppo, come dire, esuli dal sindacato, cioè un gruppo Cobas in uscita, diciamo così, e di un gruppo che è stato molto attivo nel quartiere attorno al Centro Sociale Conchetta a Milano, e che con questo ha molto collaborato, che si è occupato di sistemi alternativi di didattica a seguito a partire dalla riforma Moratti. Entrambi in qualche modo erano reduci da delle sconfitte e hanno cercato di trovare delle parole, delle ragioni che con queste, diciamo, che con queste sconfitte potessero in qualche maniera superare. Quindi diciamo che mantiene in qualche modo nelle sue corde sia una consapevolezza di quella che è una consapevolezza vissuta sulla pelle, di quella che è la difficoltà del lavoro politico e anche diciamo proprio sociale all'interno della scuola. Tanto per quanto riguarda il lato, come si può dire, dei docenti e quindi la parte del lavoro sulla scuola, quanto dal lato dei ragazzi, dei cosiddetti, cioè diciamo degli studenti, e tanto per quanto riguarda la parte proprio costitutiva di quello che uno si aspetterebbe la scuola potesse essere, cioè della trasmissione del sapere. Diciamo che nel nostro interno, e su questo abbiamo esordito con un documento molto lungo che è disponibile sul sito e diciamo che un pochino ricostruisce la storia dell'istituzione scolastica, e abbiamo la ferma convinzione che l'istituzione scolastica risponda a delle funzionalità che il sistema esterno gli propone, e che quindi, per esempio, non è corretto dire che la scuola non funziona. Per un verso la scuola funziona benissimo, perché risponde perfettamente alle domande che in qualche modo gli sono poste e che evidentemente sono diverse dalle domande che ci porremmo noi. Cioè, se mai dovessimo pensare una scuola, non avrebbe lo stesso senso, diciamo, però da questo non è che uno può pensare che non ci siano attorno, come può dire, dei motivi, delle ragioni per cui questa roba va così. Ora faccio un parallelo veloce nel caso specifico, per esempio possiamo dire che la sanità lombarda ha funzionato perfettamente, non è che non ha funzionato, ha funzionato perfettamente per fare quello che doveva fare, cioè produrre dei quattrini per qualcuno che ci speculava sopra. Quindi diciamo, non è che è stato un marchingegnerotto, è stata una macchina che andava molto bene. Ecco. Ora, tornando alla scuola, allo stesso modo la domanda quindi che noi ci dobbiamo fare è innanzitutto che cosa serve la scuola, oggi, o se volete nella ricostruzione, a che cosa mano a mano è servita nel corso del tempo, perché la funzione della scuola è mutata nel corso degli anni, e come possiamo coniugare nel nostro intervento sulla scuola, come dire, l'idea di una modalità diversa di trasmissione del sapere, cosa a cui teniamo molto, e con un mondo che invece è questa cosa qui non la rifiuta, diciamo, la rigetta completamente. E quindi, diciamo, l'obiettivo e la riflessione viaggiano abbastanza su questi piani. Abbiamo scelto, siamo un gruppo molto piccolo, abbiamo scelto di fare, come dire, un po' una pratica di provocazione, da lì il nomignolo Franti, che è in qualche modo il cattivo di cuore di De Amicis, che è quello, lo studente dell'ultimo banco, quello che in qualche modo è più indisciplinato rispetto a qualunque forma di regola scolastica, e di fare un po', lanciare delle forme di provocazione che si sono, diciamo, sostanziate in una serie di materiali scritti, volantini, libretti disegnati abilmente da Caius, che è qua presente, e che in qualche modo hanno cercato di unire, insomma, un po' un linguaggio comunicativo un pochino diverso con le parole che cercavano essere di sostanza. Naturalmente, a parte il primo testo, che è il più corposo e un po' così impegnativo. Con questo modo abbiamo cercato di interloquire con i vari soggetti del milanese, essenzialmente, che è quello che ci aveva intorno, non ci viene più facile. Siamo molto contenti di trovare in questo momento degli interlocutori con voi. Diciamo, anticipiamo, tornerà forse fuori dopo, che avevamo in animo di proporre un incontro diffuso sul territorio fisico, che fisico per adesso non potrà essere, però dovremo trovare dei sistemi per portarci avanti in preparazione sulle questioni della scuola, cercando in qualche modo di raccogliere quanti più come dire, soggetti, ricomporre un pochino un collettivo di pensiero attorno a questa questione della scuola. Basta, presentato, passerei a Caius la parola per, come lui la chiama, l'anamnesi del paziente. Prego. Allora, grazie a tutti per l'invito, grazie per lo spazio e per la possibilità di confronto, seppure con queste modalità che per me, che faccio l'insegnante, che sono costretto alla DAD da qualche tempo, stanno diventando veramente insopportabili, però l'occasione è ghiotta e un abbraccio innanzitutto, malgrado la modalità. Come dicevamo prima, santa disconnessione. Però detto ciò, io vi tratterrò il più brevemente possibile, facendo un excursus rapido, poi al limite se vi interessano degli aspetti ne possiamo parlare attraverso le vostre domande, di come è cambiato il quadro legislativo che regolamenta la scuola e quindi anche la sua funzione sociale. Fatto salvo come premessa che nei documenti che avete mandato e che sostanziano, diciamo, questo incontro, la vostra analisi sulla scuola come luogo di reduplicazione sociale, come luogo di addestramento, insieme al patriarcato, alle strutture familiari, la scuola ha un ruolo fondamentale di addomesticamento e di palestra all'obbedienza, però c'è da dire, come vedremo in breve, che si passa da un modello fordista di inserimento in una struttura comunque accogliente ad un panorama, come dire, turbocapitalista, neoliberista, dove fondamentalmente anche la funzione, come dire, minima, è già minima dal dopoguerra ai giorni nostri, già minima di ascensore sociale, viene completamente cassata, diciamo, a partire dalla legge 107. Però partiamo dalle origini. Le origini, diciamo, del disastro sono attribuibili a Berlinguer, ad un governo di centro-sinistra, nel senso che, insomma, chiamano, diciamo, di centro. Berlinguer è il responsabile dell'autonomia scolastica, che praticamente ha cambiato completamente l'impianto rispetto al coordinamento delle scuole sul territorio nazionale, mettendole invece in concorrenza fra di loro nell'ottica dell'accaparramento dell'utenza. E quindi questo è stato un ottimo viatico, come dicevate anche voi nei documenti, all'assunzione da parte delle strutture scolastiche, che tendenzialmente prima erano per un'accoglienza universale, no? Ad applicare invece una modalità di autopromozione e di criteri di accreditamento dell'utenza sempre più orientati alla propria immagine e come dire, allo sviluppo della propria immagine. Però da lì progressivamente è andata sempre peggio, perché si è passati dall'offensiva da parte del centrodestra, che trova un riassunto nella formula berlusconiana delle tre I, della scuola delle tre I, inglese, impresa e informatica, e che vede proprio un attacco serissimo alle strutture partecipative, alla rappresentanza sindacale, e diciamo al ruolo coordinativo, percepito come coordinativo da parte del corpo docente, perché si cominciano a inserire degli elementi di diversificazione della carriera, si vogliono inserire attraverso il piatto di lenticchie degli aumenti salariali, per quanto minimi. Qua è fondamentale dire che negli anni 90, cioè tutto questo ambaradan, che comincia più o meno con Berlinguer a metà degli anni 90, non è assolutamente, come dire, farina del sacco della politicaglia, della bassa politicaglia italiana, perché in verità esiste un piano europeo ordito da un'organizzazione, noi nel libretto paragoniamo, nel cartello di cui abbiamo parlato, paragoniamo la Spectre, perché si chiama European Round Table of Industries, ed è praticamente una sorta di fondazione che raccoglie al suo interno gli amministratori delegati e i presidenti, i rappresentanti legali delle più grandi multinazionali che operano sul mercato europeo e americano. Se vi ricordate, è il periodo in cui cioè, comincia ad uscire anche il TTP, i vari piani commerciali attraverso i quali gli americani volevano sfondare in Europa con una serie di regole, diciamo, anche legislativamente bizzarre. Però qui in Europa diciamo che i padroni si stavano organizzando, perché come si diceva prima, la lotta di classe non è che è evaporata in questi ultimi 25-30 anni, è stata condotta con successo dai padroni. E quindi questa organizzazione, la ERT, la European Roundtable of Industries, dove ci sono dentro la Nestlé, la Mercedes, la Sanofi Aventis, ma proprio c'è cioè una cinquantina di colossi di questo tipo, comincia a fare lobbying sul Parlamento europeo, e fa lobbying sia rispetto alle modalità contrattuali. Vedete come in Francia, in Italia e in altri stati siano state pusherate le leggi per regolamentare la contrattazione lavorativa, no? La loi Travail, il Job Act da noi, ma ugualmente l'offensiva riguardata la sanità. e la scuola. Questi due ultimi poli sono interessantissimi per i privati perché rappresentano una sfera di bene comunismo che apre delle soglie, soprattutto con il capitalismo della sorveglianza, con il traffico di dati, apre innanzitutto ai privati di settori da privatizzare, che sono come delle praterie enormi da colonizzare, no? E per la scuola, cioè come per la sanità, la certezza è che la cittadinanza sicuramente non bada a spese, o meglio, è molto più propensa a spendere per questioni di sanità e per il futuro dei propri figli. In base a questo semplice principio, l'ERT ha cominciato a puntare anche su delle forme di privatizzazione della scuola che non fossero soltanto legate alla formazione privata. E quindi negli anni 90 da noi in Italia compare la Fondazione 3L, che all'inizio è legata alla famiglia Agnelli e a questa cricca a questo gota di industriali, e comincia a produrre dei quaderni che vengono proprio passati al Ministero, al MIUR, al Ministero dell'Istruzione, per costituire l'impalcatura, l'architettura filosofica dell'intervento e della riforma della scuola negli anni a venire. Noi oggi stiamo cogliendo il succo dei frutti avvelenati che sono stati piantati nel 92, che hanno cominciato a fruttificare nel 96 e che dal 96 come dire, informano in maniera bipartisan l'azione dei vari esecutivi, sia di destra che di sinistra. Infatti questo excursus finisce purtroppo cioè in termini proprio tecnici, con il fatto che in Parlamento la famigerata Aprea, che era una delle pupille di Berlusconi, si salda con un'altra parlamentare, la Ghizzoni, che faceva parte del PD, per cercare di far passare i contenuti della riforma Gelmini e Moratti, bloccati dalle componenti studentesche, soprattutto dalla componente genitoria e dalla componente docenti, che avevano fatto una resistenza dall'interno notevole. Questi contenuti suggeriti dall'ERT, passati attraverso il Parlamento europeo e calati nei parlamenti nazionali, trovano questa offensiva parlamentare congiunta, cioè Forza Italia PD, cioè Forza Italia e Renziani, però PD, diciamo, fate un po' voi, tirate un po' voi le conclusioni, e che trovano il coronamento ultimo nella legge 107 della buona scuola, varata sotto il governo Renzi. Allora, la legge 107 prende tutti i tentativi di attacco alla collegialità, alla libertà di docenza, alla indipendenza, come dire, dei docenti rispetto alla gestione della lezione, alla controllabilità attraverso l'INVALSI, il sistema di valutazione nazionale, da una parte, e l'altro grossissimo cavallo di Troia, che è l'alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO, che prima del Covid ha cambiato proprio radicalmente la faccia della didattica proprio la percezione anche di come funziona il lavoro nei giovani. Questa offensiva che insomma dura da qualche anno sta portando dei grossi frutti anche nell'immaginario giovanile, e la legge 107 soprattutto sancisce definitivamente l'aziendalizzazione della scuola. E dire, dopo la legge 107, che ha segnato anche la debacle dei sindacati, perché è stata avallata in nome di una regolarizzazione per un numero intorno agli 80.000, 90.000, se non sbaglio, precari, attraverso tre ondate di regolarizzazione, che però non hanno coperto manco il turnover, che era stato invece blindato da una decina d'anni. Con questo alibi, diciamo, Renzi ha fatto scendere con la piena tutta una serie di cose indigeribili fino a qualche momento prima anche dal blocco dei docenti. C'è stato un ricambio generazionale, per cui un po' di rompi coglioni che venivano dalle esperienze sindacali dure degli anni 70-80 hanno levato le tende. Quindi il Covid, diciamo che rappresenta il coronamento di questa offensiva, è stato praticamente come la vaselina per il fist fucking, diciamo, è stato un potentissimo acceleratore rispetto al fatto che già negli anni 90 si parlava di digitalizzazione, Berlusconi, le 3i, però il Covid non solo ha spiazzato rispetto all'utilizzo delle tecnologie, ma anche inficiato le forme di aggregazione spontanea, anche intergruppo, studenti, genitori, personale ATA, che potevano dare vita a delle iniziative serie di blocco. Quindi questa, facendo proprio veramente una, per non asciugarvi soprattutto in video, possiamo dire che è un po' la parabola di quello che si è verificato a partire dagli anni 90 fino ad oggi. E il problema della prospettiva è quello che ci dobbiamo porre. Grazie per l'attenzione, spero di essere stato chiaro. Sì, grazie. Dunque, la seconda domanda che immaginavamo, arrivando un po' ai giorni nostri, ma al tempo stesso cercando di fare un salto all'indietro, parte un po' da quella che è stata la lettera che la ministra Azzolino ha scritto, ha mandato al corpo docente a marzo, con l'invito a a far funzionare la scuola con la didattica a distanza, precisando ovviamente che non c'era nessun obbligo formale, contrattuale, perché non esisteva nel contratto docenti questa possibilità, ma comunque invitando i docenti a praticare questa metodologia di insegnamento, possiamo definirla così, facendo riferimento in modo abbastanza esplicito alla necessità di mantenere la coesione sociale. Quindi questo in qualche modo ci porta a chiederci, come si diceva all'inizio, qual è la funzione della scuola in questa società, al di là di quello che tutti immaginiamo, pensiamo, la trasmissione dei saperi, della conoscenza, eccetera. Quali altre funzioni ha la scuola? E quindi facciamo riferimento a, non so, la formazione di cittadini, con quello che significa essere cittadini, la formazione di nuova forza lavoro, e questo in modo differenziato, quindi a seconda degli istituti, che sono tecnici, professionali, licei, quindi lavoratori, i proletari del domani, la classe media del domani, la borghesia del domani, eccetera. Quale funzione di disciplinamento ha, e in ultimo, in modo un po' più, come dire, tecnico, bieco, la funzione di parcheggio sociale, di fatto, no? Perché in questo momento può apparire paradossale, però la richiesta di Confindustria di mantenere le scuole aperte significa sostanzialmente, altrimenti dove stanno i figli di quelli che devono andare a lavorare? Ma in modo paradossale questa esigenza dei padroni converge anche con l'esigenza di chi deve andare a lavorare, perché altrimenti dove lasciano i figli? Quindi in qualche modo a cosa serve oggi il modo in cui sta funzionando la scuola e come si colloca con la sua storia, la sua nascita, e quindi come quello di oggi possa essere interpretato come un processo di accelerazione di funzioni che sono già in essere e che a nostro avviso sono poi le funzioni fondamentali della scuola pubblica, quindi fuori da un intento di difesa della scuola pubblica in quanto tale. Quali sono queste funzioni e in che modo si collocano con il passato, con la storia della scuola, anche poi nello specifico caso italiano, quindi la nazionalizzazione delle masse, la guerra e i dialetti, eccetera, eccetera. Allora, anche qua, volendo rispondere brevemente, comincio io ad aprire le danze perché sono particolarmente avvelenato. Diciamo che la scuola, mettendo a frutto la lezione post-toyotista, adesso tende a utilizzare lo smart working per organizzarsi in maniera tale che non smaterializza le strutture del capitale, ma accolla i mezzi di produzione e il loro mantenimento direttamente ai proletari, che se li devono ciucciare per poter esercitare diciamo, il lavoro. Ugualmente, la scuola, cioè i padroni, rispetto invece alla lezione toyotista, non si fanno più l'asilo o la scuola direttamente accollandosi la spesa di questa cosa qua. Effettivamente la smaterializzazione della scuola ha una sua ragion d'essere, perché se pensate al progressivo smantellamento del welfare, effettivamente il risparmio sulla scuola nel momento in cui venisse completamente smaterializzata, sarebbe notevole in termini di energia elettrica, di mantenimento degli stabili, di investimento nell'edilizia scolastica, però è tutta una serie di, sarebbero tutta una serie di risparmi. È molto interessante la lettura che tu proponevi, rispetto alla dicotomia della scuola, da una parte come modalità per passare intergenerazionalmente i saperi da una parte, e come, e la scuola invece come disciplinamento, come organizzazione e reduplicazione della struttura sociale, senza che la scuola diventi un pericoloso laboratorio di, come dire, rivoluzionario. Allora, se noi guardiamo la scuola in generale in Italia, anche il passaggio, diciamo, dal 700 all'800, volevo andare ancora più indietro, no? Con l'emersione della borghesia, le prime forme di scolarizzazione erano fortemente volute dalla nascente industria italiana, proprio perché la nascente industria italiana non aveva bisogno di rampolli nobili o di famiglia neoarricchita che imparasse il latinorum, interessava che invece avessero delle competenze tecniche. Però diciamo che, se mi posso permettere, perché non voglio farla lunga, fino praticamente, diciamo, agli anni 80, la scuola, in questa sua funzione effettiva di reduplicazione sociale, di disciplinamento, però offriva anche uno schema sociale criticabilissimo per noi che siamo per la descolarizzazione, che abbiamo un approccio, come dire, libertario, ma comprensibile per un repubblicano, per un liberale. Cioè, nel senso, effettivamente, come diceva prima Tommy all'inizio, no? La scuola non è vero che non funziona, la scuola funziona perfettamente, non per noi, anche oggi funziona perfettamente, anzi, cioè, oggi la sua smaterializzazione è frutto del caos infracapitalistico, ma secondo noi è anche frutto, appunto, di una strategia che ha delle origini ben lontane. Per cui questa sorta di contrapposizione tra il maternage e l'addestramento paternalistico all'etica del lavoro, che funzionava fino a qualche tempo fa, con le nuove esigenze dettate dalla crisi del capitale, dettate anche dalla robotizzazione, dalla perdita di posti di lavoro, dal fatto che le forze capitalistiche in questo momento in tutto il mondo non hanno una visione, come dire, comune, cioè c'è una lotta di squali notevolissima. Allora la scuola, che prima veicolava una visione sociale, per quanto criticabile, solida, adesso si trova, come dicevamo nel frattempo, a non avere neanche più una funzione sociale ben definita, e quindi a veicolare soltanto passioni tristi. E che anche le persone che ci stanno all'interno, diciamo che non avendo un orizzonte di senso alto, hanno perso un po', la loro ragion d'essere, se non appiattendosi sul ruolo di funzionari. Infatti, io chiudo il mio intervento dicendo che da parte dei genitori, da parte soprattutto degli studenti, sarebbe bellissimo, anche da parte dei docenti, in questo momento il Covid ci mette di fronte alla grandissima sciatteria dell'accelerazione di questa offensiva, ma anche della possibilità di ripensare quello che c'era prima, perché anche le forme di lotta e le forme di mobilitazione precedenti al Covid mostrano drammaticamente oggi la corda. Quindi il Covid ha anche una funzione, dicevamo fra di noi, di potente disvelamento, non di immediata soluzione, ma di potente disvelamento. Grazie. Angelo, vuoi dire qualcosa tu o io? No, io devo dire la verità, sono un po' bloccato, non mi viene niente da dire, se non magari potrei dire quella cosa che riguarda un po', che stavi accennando tu, che riguarda al nostro interno un po' di posizioni anche diverse, no? Sul che fare riguardo alla scuola, no? E se vuoi posso dirlo io, ma puoi anche dirlo tu, perché mi sento un po' bloccatino, per carità, condivido perfettamente quello che dice Andrea. Chiaramente i discorsi sono sempre molto complessi, quindi si potrebbero aggiungere anche tante altre cose, però temo di non riuscire a trovare in questo momento il dono della sintesi, quindi o dico questa cosa oppure la dici tu. No, provo a dire io, poi tu mi correggi, scusate, perché la questione della scuola è molto complicata. E in qualche modo l'ambito, la parola contiene un sacco di cose diverse. Questa cosa noi ci siamo trovati ad affrontarla molte volte nelle nostre discussioni all'interno e con l'esterno. Prendo un esempio facile rispetto a quello che dicevate voi, che è questa questione, la funzione del parcheggio. Sicuramente la scuola ha una funzione, in qualche modo può essere vista anche come luogo dove a cui le famiglie affidano la prole per poter andare a svolgere la loro funzione sociale, che è quella di produrre valore. È anche vero che per i ragazzi, soprattutto io dico per i più piccoli, l'esperienza comunitaria e collettiva è importantissima, per cui diciamo che anche nel momento in cui questa funzione della produzione del valore fosse superata completamente, andrebbe, io penso anche, no, sicuramente immaginate delle occasioni, delle condizioni in cui questi, in cui la crescita avvenga all'esterno delle mura familiari. Quindi per un verso questa questione di chiedere che il luogo restasse aperto, io dico soprattutto per i più piccoli, però gradatamente, forse in maniera discendente, però ha avuto anche questa, può essere visto anche in questo modo. Dico solo che per un bambino che può avere 4, 5, 6 anni, essere chiuso in casa per 2 mesi con i propri familiari senza poter riuscire a elaborare in alcun modo il perché, non è un'esperienza facile. Quindi riuscire a mantenergli un andamento come più o meno regolare è sicuramente, io penso, una cosa che lo aiuta, oltre naturalmente a rispondere alla funzione di lasciare il genitore, ma quello è un altro problema, diciamo, non è il problema della scuola, questo è un problema dell'assetto sociale all'interno di cui questa cosa si colloca. Quello che contemporaneamente succede è che, in particolare, diciamo, per i ragazzi più grandi, questa situazione ha mostrato la vacuità del contenuto, come dire, educativo della scuola. Cioè, che questa scuola non funzionasse, soprattutto per i ragazzi più grandi, diciamo, facendo questa differenza un po', come dire, fatta tagliata con l'accetta, però c'è, in qualche misura va considerata questo aspetto, era come dire, da tempo che si considerava in qualche modo come non del tutto non corrispondente a quelli che erano gli obiettivi dichiarati, questa cosa, cioè la tradizione del sapere è pressoché nulla. È vero che adesso si punta e si dice dichiaratamente che ci interessano delle competenze e non delle conoscenze, che di fatto la scuola dell'autonomia intesa come lo sviluppo del singolo soggetto non è più un obiettivo prevalente rispetto a quello della sua capacità di integrarsi col mondo del lavoro che viene dopo, quindi su questo è abbastanza scoperto, però il mito si manteneva uguale, e si manteneva uguale all'interno di un ambito che, diciamo tra virgolette, si poteva dire uno dei pochi luoghi fordisti rimasti, cioè luogo in cui le persone si vedevano in gran numero per lungo tempo, continuamente, e quindi dove era possibile in qualche modo anche avere il respiro per elaborare dei progetti diversi. E entrambe queste cose in questo momento sono saltate. E qui c'è il secondo pezzo, secondo aspetto in cui si può dare lettura alle parole della Azzolina, perché qui sì che la scuola fa funzione di contenimento e sostanzialmente resta, disossata di tutte le ipocrisie, una scuola di disciplina. Cioè, tu devi, a casa o a scuola, davanti a un monitor, ad un'ora qualunque, mostrarti decentemente, farti vedere al video e stare lì a far finta di studiare Dante Alighieri, in qualche modo, no? Cioè, che il contenuto sia il rilevante è chiarissimo, è apparso chiarissimo. Tant'è che, come diceva te voi prima, la prima cosa che ha chiuso è stata la scuola. Cioè, tutto, diciamo, non c'è stato dubbio. A febbraio la prima cosa che è stata chiusa drasticamente da oggi al domani è stata la scuola. Pac! Adesso, invece, la scuola resta aperta, ti porta, diciamo così, a fare delle cose a cui nessuno più riesce a credere, sia della parte dei studenti, sia della parte degli insegnanti. E però queste cose, diciamo, vanno fatte in un certo modo. Pare che ci sia di oggi una circolare ministeriale in cui si minacciano denunce per coloro i quali andranno a alterare o a, come dire, disturbare il funzionamento della DAD, dei sistemi elettronici della DAD, cosa che risulta i ragazzi fanno in qualche modo per passare il tempo, per trovarsi una ragione. Ecco, quindi in qualche modo qua quello che resta adesso, però, in questa situazione specifica qua, almeno per i ragazzi più grandi, ripeto, è risponde a una domanda di contenimento e di educazione alla disciplina, cioè una palestra di obbedienza. E in più c'ha il non spiacevole e secondario vantaggio di avere dato un colpo, una mazzata enorme a quella che si diceva l'aspetto fordista, cioè i collettivi studenteschi, le cose non ci sono più, per quel che ci sono, fanno una fatica boia ad affrontare dei problemi, ma lì la fisicità e l'assenza di fisicità ha avuto un effetto devastante su questo piano. Per cui, diciamo, è il discorso articolato, però volevo, diciamo, pur finendo così, arrivare a considerare che c'è una funzione di cura. Noi non possiamo pensare che non ci siano delle situazioni in cui i ragazzi, anche per dirvene una, come era la mia esperienza con le scuole elementari, ci sono dei ragazzi che mangiano bene solo a scuola, perché a casa non ce l'hanno da mangiare bene a sufficienza. Quindi, per dire, ci sono una certa funzione di cura e va riconosciuta, ecco, insomma. Passo. Allora, vabbè, una cosa la dico anch'io, anche se magari volevano parlare i compagni di Genova, non lo so, perché stiamo parlando solo noi. È vero che siamo gli ospiti, siamo invitati, e quindi l'ospite ha un certo riguardo e ve ne ringraziamo, però se volevate mettere voi qualche altro elemento oppure soltanto fare dei commenti su quanto è stato detto, va benissimo. No, vai pure, tranquillo. Allora, no, io dico, perché avevo lasciato la parola a Tommaso per dire quella cosa, ma non l'ha detta, però la dico io, ok. Allora, noi sì, veniamo, come è stato detto bene o male all'inizio da Tommaso, veniamo dal mondo della scuola. Gli unici due, non proprio gli unici, ma siamo veramente pochissimi rimasti a lavorare, siamo io e Andrea e Caius. Io lavoro in una scuola media, sono Angelo, e Elvira, che vedete presente, anche lei è un ex insegnante di scuola media, e invece Tommaso è un genitore. Quindi diciamo che sulla scuola abbiamo, come dire, anche generazioni diverse, abbiamo storie diverse, quindi mi piacerebbe anche sentire cosa dice Elvira rispetto ai cambiamenti che sono avvenuti, visto che era una delle domande fondamentali, no? Come è cambiata la scuola negli ultimi 30 anni, visto che lei li ha vissuti quasi tutti. Mentre io non li ho vissuti, cioè, o meglio, li ho vissuti prima da studente, adesso da insegnante da una ventina d'anni, no? Ho vissuto tutta la ristrutturazione di cui parlava Andrea. Anche se poi giusto stamattina, non so, stranamente mi ritrovavo a scuola, perché sono dovuto andare, nonostante qui la chiusura, sapete appunto la Lombardia che non riusciamo a muoverci. E una collega chiedeva proprio questa cosa a un'altra collega più vecchia che dovrebbe andare in pensione a breve, che ha circa una sessantina d'anni, mentre l'altra ne ha una cinquantina, su questi cambi, no, della scuola, di questo cambio della scuola. Ma a me lì su due piedi mi è venuto a dire che secondo me, a parte appunto un approfondimento di questa privatizzazione, di questo, chiamiamolo, visto che il contesto è il capitalismo, no? E dagli anni 80 ad oggi non è cambiato niente, se non quell'accelerazione di cui parlava Andrea, no? Poi io non sono esperto, non sono bravo a citare le varie fasi, fordismo, neoliberismo, però tanto per capirsi è molto semplice, no? Nel senso che prima era una fase di capitalismo, almeno in Italia, maturo, ora forse è proprio una fase avanzata e non si sa quello che succederà. In questa fase avanzata, diciamo da 40 anni a questa parte, evidentemente i padroni hanno cercato in tutti i modi di non perdere minimamente la loro rendita e quindi la stanno scaricando a tutti gli altri, no? In qualche modo attraverso il welfare, attraverso anche tentativi di privatizzazione della scuola proprio per estrarre il plus valore anche dai cosiddetti servizi pubblici, no? Soprattutto scuola e sanità, eccetera eccetera. Però adesso vorrei concentrarmi più che altro sul che fare, no? Che non è per niente facile. Tommaso prima alla fine del suo intervento citava questa parola cura della scuola, e che credo che sia una delle parole fondamentali relative all'idea di scuola, no? Quantomeno ha un'idea, come dire, che potremmo dire, scusate se uso questa parola nel senso che coinvolgo un po' tutti, è nostra, no? Cioè è una parola nostra, a noi sta bene. Tant'è che io non conosco benissimo la storia della scuola, però probabilmente quando è nata, almeno in Italia, forse è nata prima nel regno dei Savoia, e era più una scuola maschile, mentre invece nell'ultimo secolo diventa probabilmente una scuola femminile, e la figura femminile ha questa idea di cura, no? Un po' è caratterizzante spessissimo la figura femminile ha questa abilità. Però non è l'unica parola, cioè nel senso che secondo me altre due parole fondamentali sono la relazione, di cui si è parlato tantissimo in questo periodo di DAB, perché per fortuna, a parte accelerazioni e cose negative che sono state dette, poi io non voglio passare per ottimista anche se mi dicono che sono l'ottimista del gruppo, però diciamo che questa cosa è emersa in maniera chiarissima. Cioè l'assenza di relazione, cioè nel senso che è venuta a mancare la relazione fisica e in tutti gli aspetti, anche in quelli più politici di cui parlava prima Tommaso, no? Quindi nelle superiori, che io conosco poco perché insegno appunto alle medie, è venuta a mancare questa cosa dei collettivi studenteschi residuali, ce ne sono non più tantissimi purtroppo, però qualcuno c'è almeno nella città di Milano, e però anche proprio della presenza fisica, nel senso che comunque anche lo stare insieme è venuto a mancare in maniera brutale ed è mancato per 3 mesi ed è stata una cosa, come dire, voglio trovarne uno che mi dica che non lo abbia scosso quantomeno, no? Perché è stato un cambio di abitudine così improvviso e così brutale, così inedito, che ha scosso tutti, ma soprattutto secondo me appunto ha fatto vedere questa cosa che volendo è una delle poche cose da salvare della scuola di oggi, no? E quindi relazione, cura, ma io non dimenticherei anche la parola conflitto. Secondo me la parola conflitto è una parola che è stata dimenticata dalla società ed è stata dimenticata dalla scuola come specchio della società, perché la parola conflitto ha ha a che fare con la relazione. Io non lo so, adesso non voglio fare una classifica alle parole, però userei la parola relazione come una sorta di contesto, di quadro, di cornice. Dentro questa relazione io ci metterei sia la funzione di cura, cioè il lato della cura, e ci metterei però anche il lato del conflitto, perché tutte le relazioni sono piacevoli, ma sono anche conflittuali, anche quelle più belle, verrebbe a dire, no? Io ho un'idea tutta mia che le relazioni forse sono la cosa più bella della vita, quelle soprattutto migliori, ma anche le altre, però secondo me non bisogna mai scordarsi che sono anche quelle più difficili. Voi nel vostro documento voi parlavate del piacere, no? dell'apprendere, anche dell'insegnare, ma c'è anche la fatica, no? delle cose, e certe volte c'è anche lo scontro, è umano e non va sicuramente messo sotto al tappeto come si è cercato di fare a proposito in questi 40 anni, volendo presentare una società pacificata che non esiste. Così come non esiste una scuola pacificata, la scuola è un luogo di diversità umane, ci sono tante singolarità, ci sono una caterva di insegnanti che sono servi volontari, purtroppo sono la maggioranza, però ci sono anche insegnanti sui generi, ci sono insegnanti ancora qualcuno residuale che prova ad agire anche politicamente, no? Anche questa parola, no? Quindi a confliggere, no? Con i dirigenti, chiamandoli controparte, chiamandoli, come dire, cioè, ricordando la gerarchia, la piramide, che loro sono i capi, perché anche loro certe volte vorrebbero farlo dimenticare questo, perché ovviamente non è molto bello, no? Il padrone non vuole vedere i resti o i residui, no? Della sua attività. Ebbene, quindi direi che fare, cercare di trovare anche delle parole che siano, come dire, salvabili nel disastro, nella catastrofe, no? Perché sennò infatti arrivo al punto di premessa. Allora, al nostro interno è da anni che ci sono vari dibattiti, però uno dei vari dibattiti è questo, cioè c'è una parte di noi che in buona parte è assente adesso, che sostiene una necessità di abolizione totale della scuola, in quanto appunto è stato già detto ampiamente istituzione totale, istituzione disciplinante, istituzione che irregimenta, che abitua al lavoro, abitua a trovare il proprio posto nella società, è stato detto ampiamente anche da voi nei vostri documenti. C'è una parte di noi, nello specifico credo che sia stato Tommaso a tirare fuori questa frase, questa perifrasi, e dice: io penso che bisogna abitare la catastrofe, perché lì, pur essendo un luogo, la scuola, pur essendo un luogo appunto dove accadono purtroppo molte cose negative, di cui abbiamo già ampiamente parlato, però continua a essere un luogo dove accadono delle cose, dove ci si incontra la mattina, dove tante persone anche in maniera intergenerazionale hanno possibilità di parlare, hanno possibilità di vivere insieme, e lo citate anche voi, no? Il piacere è, come dire, fine a se stesso dello sviluppo umano per i ragazzi, e perché no, io ci metto anche un'idea di, anche qua riprendo la parola cura, inteso però in maniera un po' più scientifica, se volete, scusate questa deriva, un po' di cura parentale, cioè come specie umana noi adulti abbiamo un po' anche questo passaggio, questa trasmissione, no? Di istruzioni, informazioni, educazione, ma anche soltanto di esperienze, proprio anche solo con la nostra presenza, vorrebbe dire. E quindi c'è un posto dibattito, mi piacerebbe un po' anche capire voi cosa ne pensiate riguardo a questo, perché ci sembra interessante. Grazie. Grazie, Giovanni. No, ma poi mi sposto. Ciao, mi sentite? No, sì. Scusate, sì, sì. Dove guardare? Mi viene più da guardare. No, volevo. Mi avete, con le cose che avete detto, mi avete stimolato un intervento che non so se poi è propriamente una domanda o più una mia riflessione o anche una suggestione per voi. Questo discorso che fate sulla cura. Anch'io sono un'insegnante. In particolare sono un insegnante di sostegno e ho ben presente come il lavoro di insegnante in generale sia un lavoro di relazione e appunto principalmente un lavoro di cura, quindi questo aspetto è molto chiaro ed è sicuramente un aspetto da valorizzare ed è, come dire, un elemento positivo che la scuola potrebbe, come dire, in questo disastro, in questa catastrofe, potrebbe ancora avere e ancora mantenere. Però mi interrogavo anche su come questo elemento appunto della cura non possa essere anche un boomerang, nel senso una forma di autoricatto quasi che noi stessi in cui noi stessi ci troviamo un po' invischiati. E lo penso facendo degli esempi pratici, senza stare a farla troppo lunga, però penso che nella fattispecie il funzionamento della didattica a distanza nella prima fase d'emergenza Covid, quindi quando le scuole sono state chiuse e dopo qualche settimana si è dovuto iniziare e partire con la didattica a distanza, ancora tutti un po' impreparati e in stato confusionale. Ecco, credo che in quella fase, per tanti motivi, il fatto che alla base del lavoro che non si poteva più realizzare in presenza ci sia per l'appunto la relazione, la cura, l'incontro con altri esseri umani, abbia fatto sì che gli insegnanti stessi, anziché trovare la modalità, se vogliamo, di opporsi o di ostacolare o addirittura di non far partire quella tipologia di didattica con tutte le critiche corrette del caso, si siano invece spesi per farla funzionare al meglio. Quindi ho sperimentato sulla pelle, dal vivo, il diritto alla non sconnessione e la sovrapposizione del tempo di lavoro con il tempo proprio, libero, non mi piace, con il tempo che uno poi gestisce come crede, quindi l'espansione proprio del tempo di servizio, non dico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché sarebbe esagerato, ma comunque quasi. Quindi in questo senso questo effetto, intendo questo effetto boomerang, no? della caratteristica fondamentale, no? Del lavoro di insegnante, di essere appunto un lavoro di cura, di riproduzione, di relazione con l'altro. Faccio un ultimo esempio che ora sono un po' di giorni che, vabbè, per motivi personali non sono andata a scuola, adesso è partita, per le scuole superiori è partita la didattica a distanza al 100%, quindi ovunque, quindi anche in Regione Liguria, e di nuovo non sono ancora tornata, non sono rientrata, ma mi sto già facendo dei ragionamenti su questo aspetto nuovamente del paradosso che crea il lavoro di cura e di relazione, ed è questo, molto semplice. Io facevo l'insegnante di sostegno, nel DPCM c'è una specie di cavillo, di frase che consente per i disabili di qualsiasi ordine e grado, quindi anche per le scuole secondarie, superiori in secondo grado, di essere in presenza. E quindi la mia scuola si sta attrezzando perché gli alunni disabili giustamente siano in presenza. E il paradosso però qual è? È che saranno in presenza in una scuola vuota, dove non ci saranno i loro compagni, non ci saranno le altre classi, dove si creerà quindi, se vogliamo, forse addirittura un ritorno a delle classi differenziali, perché saranno presenti solo disabili, e quel poco di insegnanti di sostegno e di educatori che sono stati nominati, diciamo, da settembre a metà novembre. Quindi anche questo lo inserisco in un effetto paradosso di cui ora, non avendo ripreso, iniziato, non so ancora bene dire quali potranno essere poi gli effetti pratici, concreti, però mi instilla anche questo un po' questa riflessione, ecco. Tutto qua, era una suggestione, non so se come la vedete, se ci avete ragionato anche voi, ecco, quindi la centralità della cura, sono assolutamente d'accordo, però anche questo rischio. Sì, cioè, se non c'è nessuno lì che vuole aggiungere altro, io volevo dire due cose proprio al volo su questo intervento che mi sembra molto, molto interessante. Ditemi se posso annoiarvi per due secondi. Vai, c'è un intervento dopo. Però... Allora sì, guarda, brevissimo. Cioè, il problema grosso, cioè, lo volevo dire perché potrebbe essere utile per capire qual è il clima all'interno della scuola. Ancora prima del Covid c'è stato all'interno degli istituti una modalità di finanziamento attraverso i PON, che sono dei progetti per tenere aperte le scuole di pomeriggio in base ai dettami della legge 107. Per ottenere questo e per l'immissione in ruolo che consegue la legge 107, in tutte le scuole, oltre agli insegnanti di materia, cioè agli insegnanti che sono contemplati dal curriculum degli indirizzi interni alla scuola, è possibile per il Ministero assegnare anche degli insegnanti, dei docenti che non dovrebbero avere una specifica funzione lì, e che però vengono utilizzati dalla dirigenza come, viene detto così, come organico di potenziamento. Allora, questo semplice meccanismo che è stato messo in atto durante appunto le immissioni in ruolo in tre scaglioni dalla legge 107, permette una cosa che, al di là del Covid, anzi mischiata col Covid, disegna uno scenario abbastanza inquietante, perché la legge 107 assegna ai presidi, non immediatamente, visto che esistono ancora le graduatorie, ma fra poco verranno smantellate, quindi il dirigente scolastico, il preside, avrà la possibilità nel futuro funzionamento della scuola di attingere i professori attraverso degli albi regionali. Ma già adesso, con l'organico di potenziamento, spesso è il preside che decide chi va in classe e chi invece si occupa di progetti che possono anche essere, come dire, assolutamente secondari e soprattutto non comprensivi della presenza degli studenti, tipo mantenere la biblioteca, tipo riordinare i testi in biblioteca. Quindi mettete insieme questi due ingredienti. Il dirigente già adesso meno, però fra un po' avrà completamente la possibilità di scegliere lui all'interno di un range proposto dall'albo che insegnante vuole. E anche se adesso gli capita un insegnante magari particolarmente conflittivo, particolarmente rompipalle, lui può decidere, anche se la materia è contemplata tra quelle curricolari, di schiaffarlo in biblioteca, di schiaffarlo dove gli pare a lui, inventandosi una qualsiasi forma progettuale. Allora, la forma della scuola progetto delinea un panorama di discrezionalità da parte del dirigente scolastico sul fatto di fare una scuola ideologicamente monocolore, che i precedenti metodi di reclutamento, cioè, rendevano meno probabile, diciamo. La moral suasion ci poteva essere, ma qui si tratta proprio di mobbing, cioè di una forma di istituzionalizzazione di mobbing. E per quanto invece riguarda gli studenti, per chiudere, la riforma che sta venendo pucerata nei tecnico-professionali, ma come sempre, cioè si comincia la sperimentazione nei serali, poi nei tecnici, e poi se non ci sono particolari rotture di palle, la cosa diventa generale per tutte le scuole, si sta appunto puntando al passaggio dalla programmazione per conoscenze alla programmazione per competenze, che cambia completamente proprio il senso dell'insegnamento, perché si bada non più appunto alla conoscenza storica, alla conoscenza dei fondamenti del diritto, ma a parcellizzare il sapere nell'ottica di renderlo funzionale ad un impiego diretto, un po' come la filosofia, un po' come una sorta di riduzione ulteriore dell'attivismo pedagogico americano di inizio Novecento, funzionale all'ignoranza. Cioè questo passaggio che implica proprio tutto un cambiamento sulla quale non vi rompo ulteriormente le palle, però in sede di consiglio di classe, nella programmazione di quello che si farà in classe, cioè questa cosa cambia radicalmente il ruolo del docente e proprio, come dire, i contenuti che si passano, che non vengono più sviscerati e fatti capire, ma vengono spesi in funzione di come poi possono essere raccordati col mondo del lavoro. Rispetto alla domanda che mi avevi fatto prima, Christian, questi sono altri due tasselli abbastanza importanti per indicare come la scuola sta cambiando radicalmente, antropologicamente, e mira al fatto di addomesticare la prossima manodopera sul mercato europeo. Grazie. Eccoci, ciao. Io sono Martino, mi presento, diciamo ho 36 anni e sono stato uno studente fino a 20 anni, grosso modo, ho fatto il liceo scientifico e poi ho deciso di darmi a attività lavorativa. E però in quegli anni diciamo comunque ho iniziato a riflettere sulla scuola e quindi sulle cose che secondo me andavano e che non andavano e fondamentalmente penso che una delle cose che più sempre mi faceva chiedere era perché cioè devi essere obbligato a studiare delle cose per poi avere un voto che alla fine come se l'attenzione fosse centrata più su appunto sul risultato finale che non su quello che veramente a te interessava, a te rimaneva, diciamo, la crescita quindi personale. Quindi questo concetto qua, secondo me, dal mio punto di vista è sbagliato già a prescindere. Anche perché poi cosa succede? Tante volte poi ci sono tutti gli escamotage, quindi uno cerca di fare il furbo, quindi per avere un voto più alto, poi cosa fa? Copia, oppure non va a scuola perché c'ha paura dell'interrogazione, insomma, tante cose. Per cui il sistema, dal mio punto di vista, era comunque già a prescindere, già da cambiare, da rivoluzionare. E volevo leggere una piccola frase di Einstein, secondo che si chiama La crisi, per esprimere una cosa che io penso, però diciamo detta con parole migliori delle mie sicuramente, e fare una riflessione poi su questa piccola frase. Allora, la crisi. Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e per le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e disagi inibisce il proprio talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. Il più grande inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita ai propri problemi. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito, è nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece lavoriamo duro, finiamo una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla. Quindi, partendo da questa bellissima frase qua, dico, approfittiamo, no, di questo momento, facciamo proposte, condividiamo idee. La parola d'ordine, secondo me, deve essere contraria a quella che ci trasmettono i nostri fantastici governanti e i nostri fantastici media. Quindi alla parola chiusura, lockdown in inglese, clausura, dobbiamo, secondo me, contrapporre la parola apertura. Cioè noi dobbiamo aprirci, dobbiamo aprire la mente prima di tutto, aprire il cuore e aprire le idee, cioè tirare fuori le idee e condividerle e far nascere qualcosa dal basso che possa rivoluzionare la scuola. Secondo me la scuola ha bisogno di essere rivoluzionata, non deve essere abbattuta, non deve essere... deve essere rivoluzionata e quindi possibilmente coinvolgendo anche e soprattutto chi ne fa parte, quindi gli insegnanti sicuramente, ma soprattutto i ragazzi, soprattutto i giovani, che è una cosa che io ogni volta sto cercando di partecipare a diversi gruppi e vedo che non c'è mai un ragazzo di 20 anni, cioè sono veramente una rarità e quindi, cioè, cercare di coinvolgere le nuove generazioni, perché il futuro fondamentalmente è nelle loro mani, sarà nelle loro mani. E comunque sia, invece, chi ci impone questo sistema, quindi il sistema scolastico, il sistema in cui viviamo, sa benissimo che è importante invece incanalare già queste energie in una certa direzione. È per questo che poi non c'è nessuno che è interessato a nessuno dei giovani, sono in pochi a interessarsi di problematiche politiche, sociali, culturali, cioè sono tutti presi adesso da altre cose, da, non lo so nemmeno io, perché adesso ho passato anche io quella generazione lì, sono già la generazione successiva, sono diventato padre, però vedo appunto questa disillusione grande nei giovani e questa mancanza di prospettive. Quindi io, per dare anche un'idea così pratica, un po' buttata lì, perché poi sono riflessioni mie, ma non è che voglio fare grandi pensieri. E la scuola, io, un'idea che mi piacerebbe mettere sul piatto, sul tavolo, sarebbe quella di lasciare lo spazio aperto, quindi uno spazio per tutti, in cui gli insegnanti possano fare le loro lezioni, gli studenti possano andare alle lezioni di chi vogliono, bene o male, e un'autogestione, cioè gestita, diciamo, direttamente dal personale e dagli studenti, abolire quello che è appunto tutta la programmazione, tutti gli obblighi, tutto questo incanalamento di energie che si vuole che vadano in un'unica direzione, e quindi cercare invece di ampliare lo spettro d'azione e dare spazio alle idee, alla fantasia, alla capacità degli insegnanti di coinvolgere gli alunni, e a lasciare spazio anche agli alunni la scelta di poter scegliere magari una lezione rispetto a un'altra, non avere questa obbligatorietà di per forza fare le determinate materie, ma avere una possibilità di scelta un po' più ampia, diciamo. E una piccola riflessione, non so se volete intervenire voi o se ci fosse qualcun altro. Dite voi. Al momento non mi sembra ci siano interventi, perché... Scusate. Due cose io. Molto bello, diciamo, a parte forse... Vabbè. Riferimento al merito. No, io sempre un po', mi viene uno stremizio, però capisco che è una questione più complicata, quindi non è tanto da porci, da sottolineare che è vero che la crisi è un'occasione, è anche vero che diciamo, qualcuno poi ci va di mezzo, bisogna evitare di essere troppo darwinisti anche nella modellizzazione della situazione delle cose, però questa oggi è un'occasione, indiscutibilmente. E io concordo tanto con l'idea della scuola aperta, che peraltro è un modello scolastico che esisteva da prima ed esiste in degli stati di assolutamente capitalismo avanzato, in delle nicchie, se volete, sociali, però funziona anche perfettamente, anzi, diciamo, apparentemente in maniera anche molto più non dire efficace, ecco, così, di quelle che sono tutti i modelli precedenti. Quello che però una cosa che volevo dire è che tu dicevi va riformata, però tutto, diciamo, la scuola, e torno all'inizio di quello che dicevo prima, in questa scuola è irriformabile se non si cambia completamente il contesto in cui è, cioè è difficile pensare di intervenire su questo pezzo di istituzione senza che muti l'intero insieme, e quindi sostanzialmente la funzione a cui questa cosa deve rispondere. E se vuoi, questa è un pochino la difficoltà in cui si trovano le generazioni più giovani, che però io non mi sarei così sfiduciato, cioè si muovono, pensano, hanno dei canali e c'è poca comunicazione forse, però non è che sono del tutto immobili. Diciamo che loro si trovano in questo momento in una situazione particolarmente difficile, perché abbiamo assunto una cultura in cui la prospettiva temporale è zero, cioè su questo il neoliberismo, chiamatelo come volete, funziona con dei tempi per dire, brevissimi, non c'è nessuno a livello strategico proposto o concepito né da una parte né dall'altra, e quindi loro il senso della prospettiva in qualche modo gli è stato tolto. E in questo momento qua, in particolare nell'ambito scolastico, quello che gli si propone dal punto di vista conflittuale, per tornare anche a quello che diceva Angelo prima, è il conflitto radicale con l'istituzione. Cioè loro, è difficile dire che questa cosa si possa migliorare. Guardate come funziona: i studenti francesi fanno la lotta per stare a casa, i studenti italiani, quei pochi, vorrebbero, almeno quelli che se conosco, riprendere ad essere quello che in qualche modo avevano prima. E la differenza, perché in mezzo non c'è più nulla, è deserto, e quindi, come dire, è venuta alla luce il conflitto appunto con la funzione contenitiva, io parlo delle superiori in questo caso in particolare, con la funzione disciplinante e contenitiva. E allora uno che viene in un mondo senza prospettiva gli si chiede di esprimere conflittualità contro il contenimento, contro l'istituzione radicale, è dura, cioè oggi, dico nel 2020, perché questa cosa ancora forse 40 anni fa poteva avere un 50, poteva avere come dire, un humus culturale, storico e politico e così, una tradizione attorno diversa. Adesso lo sforzo proposto è immane, il che non vuol dire che non possa essere fatto, perché può essere che il tappo salta in qualche modo. In questo senso io credo che l'occasione ci sia e che valga la pena di insistere. E anche per questo la nostra idea era, anche questa diciamo era un pochino alla base della nostra idea di raccogliere contributi e scambiarci dei piccoli testi, dei piccoli audio, delle cose anche in questo momento in cui è difficile muoversi, in preparazione di una riflessione più complessa e articolata da fare dopo. Va bene, parlo io, sono stata chiamata in causa da Angelo. Allora, due brevissime riflessioni. Appena ho sentito che gli studenti con disabilità potevano tornare a scuola, la mia prima idea è stata per forza, perché sono molto meno gestibili a casa, perché per quanto i genitori possano fare con i ragazzini, però non avendo altri aiuti, meglio che arrivino, meglio che stiano a scuola. L'altra questione, allora, la scuola degli anni 70 e 80 era un tra le esigenze dei padroni che in quel momento avevano bisogno della scolarizzazione di massa e la conflittualità di massa, perché c'era una grossa conflittualità che partiva proprio dal discorso delle assemblee di base, quindi della scuola aperta di base, che poi è stata con il compromesso, è stata attuata nei decreti delegati. Ci siamo, perché quello che per il padrone era una elargizione, per noi era appunto un tappo sulle richieste. Quindi questa è per dire, la meritocrazia era stata la contrarietà alla meritocrazia era stata assunta anche dalle istituzioni, tanto che era proibito, per fortuna, dare i voti, perlomeno in tutta la scuola dell'obbligo, e quindi e non si poteva manco nel giudizio, nell'elaborazione della valutazione, non si poteva usare la parola sufficiente, perché poteva essere considerato un 6, che non doveva essere da scrivere soddisfacente. Il tema è stato svolto in modo soddisfacente. Per cui i cambiamenti sono stati drammatici, secondo me, epocali. Questo volevo dire, visto che mi avevano chiamato in causa, Angelo mi aveva chiamato in causa come testimone del passato, io posso dire che quando ho iniziato a lavorare era un bel periodo. Volevo rispondere alla compagna di Geano, però forse c'è un altro intervento. Prego, prego, prego. No, io mi chiamo Enrica e sono una maestra di asilo nido. E però volevo dire questo, sto ancora lavorando perché ho ancora un po' di anni di lavoro. E volevo dire che mi rattrista molto comunque che l'esterno non sia più presente nella scuola come un tempo, cioè quello che erano le esperienze lavorative di fuori, il quartiere, tutto questo, nella scuola entrava. Io ricordo quando questi decreti delegati, appunto sì, saranno stato un tappo, ma io li vivevo dal dentro, ancora liceale, con queste possibilità di partecipare al consiglio d'istituto, quindi io mi ricordo ero stata eletta perché l'ambiente era quello della, non so, FIGC, politicizzato a quei punti lì, ecco, quello che frequentavo in quegli anni. E quindi avere un punto, diciamo, venivamo ascoltati, no, dai professori, nei consigli d'istituto, e sembrava che lo studente avesse qualche voce in capitolo. Dopodiché lavorando, poi io non ho finito l'università, e lavorando negli asili nido, negli asili nido anche l'esterno aveva una presenza, perché c'erano le graduatorie, c'erano dei punteggi da dare, ma soprattutto c'erano i rappresentanti di quartiere che aiutavano con i finanziamenti, con i fondi che avevano il decentramento della cittadino, gli spazi esterni degli asili nido. Quindi c'era uno scambio tra l'utente e il lavoratore dentro, ecco, era importante questa situazione, che adesso è completamente sparita. Diciamo, ora nell'asilo nido io mi ritrovo a fare una funzione di controllore, una funzione di vigilante su queste maschere. È una situazione veramente, per me, disastrosa. Io poi ho anche cambiato asilo nido, quindi sono con colleghe nuove, con un gruppo di lavoro un po' conflittuale all'interno, quindi sto faticando, perché è pesante questo ruolo che ci chiedono a noi che prendiamo i bambini del nido, di stare tutto il tempo con la mascherina addosso, perché se non stai con la mascherina guai. Quindi poi nel chiuso delle classi io penso che chiunque se la tira giusta mascherina e si rapporta con i bambini. Al di là di questo, l'invasione di prodotti farmaceutici, disinfettare, temperature, quindi è ben chiaro che il capitale aveva bisogno di una grossa entrata, non più dalle armi ma dai prodotti sanitari, le industrie farmaceutiche, tutto quello che sta arricchendosi, per non dire l'informatica, che tutto quello che sta arricchendosi alle spalle, insomma, all'interno di questa crisi. Però quando ci si è dentro, poi è difficile ragionarci. Domani andremo a manifestare, ci saranno delle parole d'ordine, ci sarà modo di incontrarsi con la gente in città, mi auguro bene. Peraltro, alla radio si sentono dei canali alternativi di controinformazione, ma il grosso della gente si sta, non sa più dov'è, ecco, perché se la scuola manca, e è vero che la scuola era una trasmissione di sapere, è vero che la scuola era, poteva essere, diciamo che se uno Stato non ha più interesse, cioè se lo Stato si sta svuotando all'interno perché non c'è più rappresentanza politica, siamo in una crisi istituzionale infinita. La scuola è una delle istituzioni dello Stato, e dentro la scuola però il bambino, io la vedo dal punto di vista del bambino, ci sono quegli scambi relazionali con le figure che non sono i genitori, con i compagni, con le altre famiglie, quindi un'apertura della famiglia. Laddove ci sono delle esperienze steineriane o alternative di scuola, può essere bello per i bambini, un po' snob secondo me, perché il grosso della gente ha bisogno della scuola cosiddetta tradizionale, che insegna a leggere, a scrivere, a pensare. Quello che ha parlato prima è mio figlio Martino, e sono contenta che abbia detto delle cose che condivido assolutamente, pienamente, però poi diciamo che la rivoluzione si fa all'interno e quindi con buoni insegnanti che sappiano dare un valore al loro tempo con il bambino e all'interno della scuola, e quindi con tutti questi scambi, con la valorizzazione delle famiglie dalle quali provengono i bambini, i lavori dei nonni, i mestieri. Mi viene in mente che l'anno scorso all'asilo di suo figlio Martino hanno portato i nonni del quartiere, chi era cuoco, chi faceva il loro mestiere, hanno portato le loro esperienze, e questo fa sentire il bambino l'esterno, la scuola, fa sentire un elemento, un grosso fattore di crescita, ecco, perché la scuola è fatta poi dai singoli bambini, saranno loro i singoli bambini che saranno i grandi di domani. Oggi è veramente questa crisi, forse desiderà, forse che bene che sia venuta, però chi la gestirà? C'erano i Friday for Future, c'erano tutti i seguaci di Greta, ora c'è il divieto, c'è il distanziamento. Questa parola dell'istanziamento è una parola che fa rabbrividire. La militarizzazione della società fa spavento, non possono non farci, non possiamo non vedere che ci sono i militari dovunque e i poliziotti per vedere se c'hai la maschera, non c'hai, se ti assembri o non ti assembri. Ma cioè, penso che chiunque ormai si senta che ci sono altre cose sotto, che sono appunto la crisi del capitale, ma che nella crisi profonda sta trascinando dietro la società e tutto quello che c'è. E quindi dico io, cosa dico? Grazie a questa opportunità cittadine, così un po' under, come dire, perché ci troviamo in un posto che sembra proprio dei carbonari dell'Ottocento, questo posto, peraltro ben venga, meno male che ci si possa incontrare, perché altrimenti appunto ci sono questi scagnozzi che girano che non ti puoi neanche riunire, è una cosa spaventosa. Quindi grazie e andiamo avanti. Ciao. Ciao Enrica. Allora, io volevo rispondere però alla compagna precedente, di cui mi sono perso il nome purtroppo. Stefania. Ah, volevo rispondere a Stefania, perché molto coincidenzialmente, ma anche molto fortunatamente se volete, io sono un insegnante di sostegno della media, e proprio stamattina, come dicevo, ero a scuola perché ho lavorato con degli alunni che seguo, con altri, un ragazzo disabile grave, un autistico molto grave, che tra l'altro durante il precedente confinamento di marzo-aprile non eravamo riusciti a seguire, ce l'avevamo messa tutta, addirittura ce l'avevamo messi anche a disposizione per andarci a casa, però siccome lui a casa aveva la nonna di una certa età, anche la nonna aveva un po' di paura di ricevere dei giovani che potevano essere veicolo di infezione, quindi insomma alla fine abbiamo desistito. Solo nell'ultima parte dell'anno, verso giugno, siamo riusciti un po' a portarlo un po' in giro al parco, perché è un ragazzino comunque con una disabilità molto grave, ha 13 anni, non parla, insomma abbastanza inquieto, agitato. Allora, su questo, non lo so, mi susciti alcuni, come dire, dubbi, e ben vengano, sul fatto che io effettivamente sono un po' certe volte ottimista, no, su questo, nel senso che adesso io non voglio fare il come dire, il funzionalista, né tantomeno il darwiniano, come diceva Tommaso, però voglio dire, se così un po' banalmente forse, secondo me la didattica a distanza rispetto a un'eventuale funzione, un eventuale scopo di insegnamento, apprendimento, se gli diamo un valore positivo, secondo me non funziona tantissimo, o almeno sicuramente a marzo-aprile non ha funzionato. E quindi invece il fatto di avere dei ragazzini in altre classi anche che hanno delle grosse difficoltà a casa, non hanno possibilità, come diceva Tommaso, vabbè, lui faceva l'esempio estremo addirittura del cibo, no? Però io parlo invece a livello culturale, cioè ci sono ragazzini che a casa non hanno un libro perché non hanno la possibilità e perché non è un'abitudine, spesso ragazzini stranieri, penso anche ai ragazzini stranieri di nuovo arrivo, ne ho uno in terza media, e quindi direi che io sono favorevole comunque con tutti i dubbi che mi hai fatto nascere e che comunque in parte a cui avevo anche pensato sinceramente del fatto che sono connotati anche con la legislazione sul sostegno, no? Nel senso che ci sono alcuni che ritengono che già un ragazzino che abbia una certificazione di disabilità venga marchiato un po' a vita, però io cerco di guardare appunto l'opportunità, il fatto che comunque questi ragazzini stranieri un po' senza grossi strumenti e grossi aiuti dalla società e dalla famiglia possono avere appunto una possibilità a scuola di poter essere anche in presenza, di poter fare qualcosina, che non dico, non voglio ritirare fuori assolutamente l'idea di ascensore sociale, sono piccole cose però che possono aiutare a quantomeno forse limitare il gap, no? la differenza con gli altri. È vero anche quello che dice, ad esempio oggi il nostro alunno di sostegno, tra l'altro abbiamo dovuto gestire una difficoltà organizzativa non da poco, si ritrova da solo, ma purtroppo lui è già da solo da quest'anno in seconda media, anche se avevamo previsto di farlo entrare più spesso in classe, però con questa situazione della pandemia, siccome lui non riesce a tenere neanche la mascherina, abbiamo limitato fortemente i suoi ingressi in classe. Quindi i limiti ci sono, le difficoltà ci sono, indubbiamente, non voglio apparire, come dire, banale, no? Non voglio apparire troppo ottimista, però vorrei anche cercare di trovare qualche spunto proprio per salvare il salvabile, come dicevamo, per non buttare il bambino con tutta l'acqua sporca, come si suol dire, perché sennò allora, no, dico un'altra cosa che riguarda l'intervento di Martino, se non sbaglio, anche se Tommaso ha già risposto, io sono d'accordo, e un po' mi riallaccio anche all'intervento di Enrica, e secondo me, e lo ha detto anche il Vira, e bisogna rivoluzionare la società, perché la scuola è dentro la società, e questo io lo dico partendo anche dalla mia storia personale come insegnante, se volete. No, cioè quando ho iniziato a insegnare anche io avevo un po' di entusiasmo, la didattica, per carità, l'insegnamento, cercare di essere un bravo insegnante, cercare di riuscire a comunicare bene con i ragazzi, però quasi subito ho avuto per fortuna anche degli stimoli giusti per dire che bisognava essere conflittuali, quindi mi ero candidato come RSU, ho fatto anche l'RSU con i COBAS per un paio di tornate con situazioni veramente paradossali che vi risparmio, non vi tedio assolutamente, però a un certo punto quando abbiamo fatto questo percorso a Milano di uscita dai COBAS, il ragionamento, la mia esigenza, ma non era solo la mia, era stata quella di aver capito che nella scuola il conflitto è necessario, ma non è sufficiente, perché è importante, come dire, fare un conflitto nella società, perché è lì che bisogna cambiare i contesti, perché se no, allora io penso che anche le generazioni di oggi, oltre che noi, siano molto molto condizionate, molto plagiate da questa ideologia dominante del produci, consuma, crepa, no? E mentre negli anni 70 probabilmente c'erano ancora dei valori, se volete, residuali del Novecento o dell'Ottocento, in cui l'individuo riusciva bene o male a confliggere appunto con i valori dominanti, oggi, e lo dimostra probabilmente anche questa nostra inerzia rispetto ai dispositivi di chiusura che arrivano dall'alto, per cui non reagiamo, sono legate al fatto che l'individuo capitalista neoliberista attuale è un individuo molto molto fragile, non ha assolutamente nessun tipo di solidità che gli permetta di andare controcorrente, perché l'unico valore, soprattutto per i giovani purtroppo, è quello del consumo e del successo attraverso il consumo, attraverso il possesso, l'avere, no? E mentre invece sappiamo benissimo che la vita è altro, no? Non è solo avere, certo, bisogna avere per mangiare, per avere una casa, avere un reddito sufficiente a una vita dignitosa, avere una sanità pubblica e aperta per tutti, però le relazioni, come dicevo prima, per me sono importantissime. Questi ragazzi forse ancora cioè fanno ancora più fatica dei ragazzi di una volta, cioè lo capiscono più tardi e non è detto che lo capiscano sempre, perché l'indottrinamento, il condizionamento esterno è massiccio, è fortissimo, e li mette, come dire, a profitto addirittura nei corpi, no? Con i social network, con le loro esistenze. È veramente un attacco impressionante che arriva dal capitale, che si spera in agonia, però secondo qualche visione non è detto che sia così in agonia, no? Non è detto proprio, anzi, forse proprio per questo bisogna ritornare a lottare molto molto molto radicalmente. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, io mi presento, sono Gianluca e mi ricollego almeno parzialmente agli interventi che avete fatto sia tu che la Stefania prima. Io spiego un po' la mia situazione, sono abbastanza un neofita al mondo della scuola, nel senso che sono un laureando e spero venturo insegnante, e dal momento sto facendo un tirocinio in una scuola in un quartiere molto periferico qua a Genova. E, tra l'altro ho iniziato il mio tirocinio poco prima che iniziasse tutto il casino Covid, e l'ho riniziato adesso in presenza, e trattandosi di una scuola media chiamiamola la fortuna di poter ancora vedere i ragazzi e tutto. Oltre al fatto che questa situazione qua ci ha catapultato in uno scenario dove si tende chiaramente un pochino sempre a navigare a braccio, perché non si sa mai cosa succeda da un giorno all'altro, da una settimana all'altra. Oltre a tutto il processo di disgregazione sociale a cui possiamo assistere già da ben prima del discorso Covid, per cui social network, digitalizzazione, che è un po', al momento sembra un po' la parola del demonio, perché comunque la padronanza del mezzo digitale sembra, cioè, una cosa che spesso magari tendiamo a dare per scontato, e spessissimo purtroppo non è così, lo dimostra la situazione in cui ci troviamo adesso, che per carità ci permette di comunicare, ma insomma sempre con le dovute difficoltà. Quello che sto dicendo io, oltre al fatto che bisognerà in qualche modo iniziare a interrogarsi un po' anche sulle conseguenze sia a breve che però a lungo termine di quello che è la didattica a distanza e la digitalizzazione unita alla disgregazione del tessuto sociale a cui alludeva o hanno esplicitato gli interventi prima di me. Io vedo per esempio dei cambiamenti o comunque un impatto drammatico che ha avuto di questo periodo di didattica a distanza su i ragazzi la differenza, diciamo, tra le terze che vedevo ancora nell'anno scolastico precedente e quello attuale, un totale smarrimento e anche una progressiva perdita del senso della consecutio proprio nella ricostruzione degli eventi e nella, insomma, fondamentalmente si prendono molto dall'analfabetismo funzionale dei loro genitori e se lo trascinano anche a scuola. Se questo prima era un elemento che comunque si poteva in qualche modo intravedere, adesso sembra con la mancanza, con la disconnessione, con la mancanza di comunicazione che c'è ed è sempre più frequente, sembra aumentare in maniera vertiginosa. Mi chiedo che scenario ci si prospetta se questo andazzo va avanti anche solo che per mettiamo anche solo per un anno scolastico, oltre al fatto che c'è l'incognita del fatto che come verrà gestita la questione, e quindi purtroppo ho messo altra carne al fuoco, forse ho messo il dito, diciamo, su una piaga, diciamo, ulteriore, oltre a tutto quello che stavamo sviscerando già prima. Come mi interrogo quotidianamente su quali saranno, diciamo, le conseguenze a medio e lungo termine di queste modalità al quale ci troviamo costretti, spesso anche con un raggio di reazione abbastanza limitato. Tutto qua. Quindi volevo chiedervi anche se avete fatto delle osservazioni simili, tu in qualche modo nel tuo intervento un po' hai confermato questa mia visione, volevo magari anche un parere da chi si è vissuto anche i periodi prima di me, o comunque da, insomma, che ci fosse un minimo di input-output da questo punto di vista. Volevo dire una cosa all'ultimo compagno che è intervenuto e che anche qua ringrazio per le suggestioni. Tutti gli interventi sono molto interessanti e mi ricollego, cioè partirei dall'intervento di Martino che mi ha fatto molta tenerezza, sia perché gli faccio gli auguri per suo figlio, lo abbraccio, sia perché ha proprio rappresentato plasticamente attraverso il suo riferimento ai voti quello che effettivamente succede nella scuola. Quando si dice che la scuola andrebbe riformata, andrebbe non riformata, rivoluzionata dall'interno, il problema è che la scuola ha una struttura che la rende irriformabile. È vero che esistono delle esperienze di scuola libertaria, di scuola popolare, dove appunto l'abbattimento dei voti, la scelta delle materie mattutine, l'autoregolamentazione degli studenti, la funzione esclusivamente di fluidificazione dell'insegnante, esistono e sono delle esperienze che sono bellissime e ci danno un sacco di gioia e di speranza, ma che non sarebbero reduplicabili all'interno della scuola pubblica, proprio perché e come è strutturata la scuola pubblica attraverso i voti, i regolamenti, il connubio fra i vari organi collegiali, la funzione del SGA, cioè del responsabile economico, e la funzione del preside, creavano già, come dire, prima del Covid, già negli anni di forte conflittualità, una struttura che appunto era vivificata e spostata dal conflitto, ma che difficilmente, mantenendone l'assetto, avrebbe permesso una gestione differente. Oggi noi ci troviamo di fronte ad un ulteriore irrigidimento della struttura, per cui io chiuderei questo mio intervento riprendendo un po' la tematica che ricorre all'interno di Franti. Il problema più grosso oggi è che manca una sorta di orizzonte, non dico ideologico perché è una parola brutta, occorrono dei catalizzatori nell'immaginario che possano rendere fattiva l'azione, che possano coagulare l'azione delle poche persone di buona volontà e dotate di un minimo di coraggio all'interno dei loro posti di lavoro. La copertura sindacale non è ragione sufficiente per riuscire a mobilitarsi in questo senso. Lo sciopero è attualmente un'arma spuntata. Noi ci autotassiamo e la nostra, i pochi che scioperano scompaiono anche dall'orizzonte della presenza della scuola, e oggi abbiamo visto che la presenza è un tassello fondamentale, per cui noi dobbiamo reinventarci completamente delle forme di boicottaggio della proceduralizzazione, delle forme di rifiuto della digitalizzazione, che appunto devono basarsi su parole d'ordine molto più chiare, no? E dovrebbero anche in questo senso preludere ad una forma di confronto che in questo momento è fisicamente impossibile fra le varie componenti della scuola, per raccordare la rivendicazione per esempio sulla DAD. Io in queste settimane ho visto che per esempio nella provincia di Milano anche fra gli studenti c'era molta confusione sul che cosa chiedere, cioè tutti quanti erano d'accordo nel condannare come veicolo di pericolosità l'esposizione sui mezzi, ma su come riorganizzare la scuola non c'era una visione comune. Quindi la visione comune va ricalibrata su dei contenuti molto alti, perché se facciamo battaglie di piccolo cabotaggio di difesa come dire, della comodità o della corporazione non ne usciamo più, ed anche per questo i sindacati attualmente, la strategia dei sindacati mostra la corda, occorre veramente alzare il livello delle idee, no? Per cui noi anche in questo senso, ne approfitto per ridirlo, contiamo sul fatto che la collaborazione con voi compagni genovesi, sia in termini di preparazione, sia in termini poi di confluenza fisica, appena il lockdown ci darà la possibilità, per noi è preziosissima. Cioè, noi contiamo effettivamente di cercare di rilanciare il dibattito come preludio alla lotta, riprendendo quello che si diceva sul fatto che la lotta è un po' l'unica dimensione vivificante che ci rimane. E poi, se volete, quando stiamo facendo un ulteriore fumetto, un ulteriore insieme di tavole fumettistiche per supportare dei contenuti un pochettino più seri, per cui se poi vi interesserà, ve lo faremo avere sicuramente. Poi, qualora lo riteniate interessante, noi siamo sempre disponibili a vederci e a confrontarci, soprattutto di persona. Benedetta disconnessione. Grazie mille. Ciao. Niente, io mi chiamo Giada e l'anno scorso ho fatto il mio primo anno di insegnamento e mi sono trovata davanti a questa situazione di cambi continui e di primo anno in cui effettivamente il digitale entrava e prendeva il possesso completo della scuola. E quest'anno insieme ad altri precari un po' per cioè, abbiamo iniziato a entrare in contatto e stiamo facendo un'assemblea per nata dalle difficoltà che ci sono state e tuttora ci sono per le convocazioni, e quindi un po' tutta quella confusione che si è creata in tutta Italia e anche qui nella provincia di Genova. E da questo incontro tra vari precari è nato un gruppo che continua ad incontrarsi e a parlare di vari argomenti, tra cui uno di questi è logicamente la didattica a distanza, o meglio oggi chiamata didattica digitale integrata, che prende un po' tutto quanto. E abbiamo iniziato a confrontarci sia su quello che significa la didattica digitale integrata, e poi ci siamo trovati davanti al contratto collettivo integrato, quindi quello che è l'integrazione del contratto collettivo, almeno per questo periodo di emergenza, sulla didattica digitale integrata. E abbiamo iniziato a leggerlo e a confrontarci su che cosa significa e che cosa c'era scritto. E abbiamo trovato varie cose che non ci piacevano, e oltre proprio il concetto della didattica digitale integrata, anche il fatto che bisogna, se un professore è in quarantena, comunque deve fare la didattica digitale, a meno che non ha dei sintomi, quindi non sta male. Quindi sì, noi ti limitiamo la libertà personale, tu devi stare in casa come se fossi un malato, cioè come se fossi malato, però puoi continuare a lavorare, questo potrebbe avere delle derive non proprio positive. E il fatto che comunque con questo contratto viene contrattualizzata una cosa che non è, cioè, viene messo nero su bianco il fatto che tu debba fare la didattica digitale integrata, e quindi anche se non è successo che ci fosse un rifiuto da parte dei professori, perché non c'è stato proprio per il discorso fatto prima della cura, del non abbandonare i propri studenti, però mettendo nero su bianco su un contratto questa cosa, non c'è la possibilità, non c'è troppo margine di muoversi, e come il fatto di mettere tutto sul digitale e per fare dei materiali, un materiale utile, comprensibile attraverso il computer, che i ragazzi possano capire, comunque ci vogliono delle abilità non da poco, e quindi questa cosa, anche se non in modo palese, però restringe la possibilità della libertà di insegnamento, perché saranno sempre più i professori che andranno a prendere quelli che sono i pacchetti già pronti delle case editrici e così via. Sono varie, insomma, le cose che non ci sono piaciute, e ci siamo domandati, senza darci una risposta effettiva per ora, non una risposta, se tutti i limiti proprio a livello del professore, di questo contratto, fossero colti a livello generale dai professori, perché le risposte che abbiamo da altri professori non ci sembrano molto, cioè non riusciamo a capire quanto questo è visto come un problema, quanto invece non è accolto come un problema. E in più siamo trovati davanti al fatto che in questo periodo di lockdown o comunque limitazioni, il fatto di non vedersi a scuola e avere delle possibilità di confronto molto limitate, la possibilità di scendere in piazza limitatissima, come proprio agire per contrastare tutto quello che sta succedendo, e anche questo contratto che da un giorno all'altro è uscito fuori, già mezzo firmato, però ancora no, che non si capisce se quando e come lo firmeranno, si scoprono le cose 2 ore prima che si incontrino i sindacati con il ministero. E quindi mi domandavo se voi avevate ragionato su questa cosa, quali erano magari le vostre impressioni, i vostri spunti, come se avete ragionato su questo argomento, come, cioè, che risposte avete pensato di dare, come muoversi. Sì, è molto ampia come cosa, però visto che è un momento di confronto, la butto là. Carissima compagna, anche qua faccio io da, mi prendo io sta patata bollente, perché è vero che noi ne abbiamo discusso ampiamente, nel senso che abbiamo discusso sul fatto che la moltiplicazione dei canali di reclutamento è servita negli ultimi 5 anni per disgregare il fronte, per spaccare. Scusa, mi sono reso conto ora. Oh, dicevo, scusate, che mi prendo la patata bollente, perché ne abbiamo parlato molto, ma poi non, cioè, purtroppo la compagna non siamo giunti ad una soluzione. Cioè, non posso chiudere l'intervento dandoci delle indicazioni precise. Già il fatto che tu ti sia aggregata con degli altri precari e che abbiate letto i documenti e che abbiate deciso di, come dire, di esporre la vostra visione, di esporvi è ottimo, è ottimo. Già l'organizzazione, l'auto-organizzazione è la risposta, per cui non bisogna farsi scoraggiare dal fatto che non ci sia storiograficamente, che questo non sia storiograficamente un momento come dire, fertile. C'è da dire che la moltiplicazione, come dicevo, dei canali di reclutamento è stata una strategia specifica negli ultimi anni per spaccare quel fronte di resistenza interno che aveva fatto argine alle riforme della Moratti e della Gelmini. Anche i TFR, lo spostamento dell'attenzione durante il reclutamento ad un'altra forma di ginnastica di obbedienza per voi, il calvario dell'attuale concorso che non ha nessun senso, sono tutti momenti di introiezione dei meccanismi di biopotere, di proposizione di meccanismi di biopotere che purtroppo noi come classe di lavoratori, come categoria di lavoratori, soprattutto i più giovani, non percepiscono come tali e quindi tendono a reduplicare con poco senso critico. Questa è la difficoltà più grande perché appunto, come dicevamo più volte tra di noi, all'interno della scuola esistevano dei corpi intermedi, la rappresentanza sindacale di base soprattutto, i collettivi, le saldature con i gruppi di genitori che adesso non ci sono più, anzi ultimamente i genitori si stanno almeno a Milano, che come dicevamo è il laboratorio della merda, spesso si costituiscono come comitati e fanno pressione sulle istituzioni nell'ottica della digitalizzazione, nell'ottica di uno spostamento dell'asse verso un modello americano di istruzione. Quindi, cara compagna, veramente le cose da fare sono auto-organizzarsi e, secondo me, non aspettare che siano terzi i sindacati di qualsiasi tipo a venire a proporre delle soluzioni. E l'idea che anche noi vorremmo rilanciare confrontandoci con voi di Genova, con i compagni di Trento, e trovare magari delle forme non invasive in termini contrattuali o in termini di la vittoria è la nostra forza, quindi un ritorno un po' a questo immaginario di guerra con cui stanno insistendo molto in questi mesi, la guerra al virus, una guerra in cui non si capisce bene se il nemico sia il virus, sia segmenti di popolazione, eccetera. Mantenendosi un po' su questo immaginario bellico, quello che ci chiediamo è se siano immaginabili delle forme di disfattismo, rimanendo su questo linguaggio, insomma, per cui io faccio l'operaio, per cui non lavoro a scuola e probabilmente semplifico molto la questione, mi viene da interpretarla secondo le mie teorie, però quello che mi viene da chiedermi è, nel momento in cui la funzione positiva della scuola che avete descritto sostanzialmente viene meno o è completamente annullata? Rimangono le funzioni disciplinanti, di parcheggio, di formazione di nuovi cittadini, di nuovi lavoratori? Si va a scuola con le mascherine per non prendersi il Covid, ma poi si sta con le finestre e porte aperte con l'ottimo risultato che magari ci si prende la bronchite e non il Covid. Le graduatorie sono completamente bloccate. Insomma, è possibile immaginare che il corpo docente o che delle minoranze del corpo docente facciano un ragionamento di questo tipo? Bene, noi a queste condizioni la formazione che voi ci richiedete non la facciamo, quindi la didattica a distanza la rifiutiamo. Non so se si tratta di forme di sciopero, non ci sarebbe chiaramente la copertura sindacale, che siano scioperi bianchi, una volta si facevano i blocchi degli scrutini. È immaginabile trovare delle forme concrete per dire no, noi a queste condizioni non ci stiamo. Mi rendo conto che è molto semplificante e banale, è un modo per trasporre la dimensione da picchetto nel mondo scolastico che chiaramente è tutta un'altra roba. Forse non c'è una risposta oggi, forse può essere un argomento di questo eventuale prossimo incontro che si farà, però anche per concretizzare un po', no? Nel senso rivoluzionare la scuola, rivoluzionare la società, credo che banalizzando sul fare la rivoluzione siamo tutti d'accordo. Come cazzo si fa ora rispetto a questa condizione in cui da oggi, da domani, no, da lunedì, non lo so, va tutto al 100% in didattica a distanza? Anche con quello che significa la digitalizzazione, tutta la riflessione della Zuboff su quello che comporta poi in digitalizzazione della società in generale, i profitti delle aziende, come muteranno i nostri comportamenti nella misura in cui gli effetti dell'informatica saranno invasivi e pervasivi nelle nostre vite. Si può cominciare in qualche modo a ragionare oggi dal primo luogo in cui il digitale entra in modo così invasivo a pensare delle forme di opposizione? Finito. Ascolta, il che fare non l'abbiamo riscritto, quindi la risposta è difficile. Io penso, improvviso però, diciamo su questo, che un nodo grosso è il fatto, e non credo di dire delle cose originali, purtroppo mi dispiace, diciamo su questo lì è un limite, mi rendo conto. È il livello di disgregazione e di assunzione di queste forme di autodisciplina che sono state portate all'estremo da questo fenomeno della pandemia, perché di fatto tu rischi fortemente di passare per l'untore, capito? Quindi il ricatto è altissimo, diciamo. Allora, su questa roba qua, innanzitutto, secondo me, bisognerebbe riacquisire la capacità di fare delle riflessioni intelligenti, almeno, come dire, costruire una bussola di orientamento generale specifica sulla catastrofe. La frase di abitare la catastrofe non è mia. Però la prendo volentieri, diciamo, in qualche modo dentro ci sei ed è dentro che bisogna muoversi. Quindi intanto di agire dell'intelligenza collettiva all'interno di questo quadro per, come dire, difendere, costituire una rete, diciamo, di anticorpi, lasciatemi lo dire, rispetto alla marea di puttanate che ci circondano e che sono figlie di una grande confusione ovunque. Io ripeto, credo che a livello strategico, anche da parte del governo, dello Stato dei capitali, è bassissimo. Abbiamo a che fare con un livello bassissimo, però non siamo forse neanche capaci di rimetterci in sesto su questo. E poi di costituire un minimo gruppo come dire, di lavoro un po' grosso. Anch'io sono molto contento di quello che diceva la compagna prima, di questo gruppo di precari che si trova. I precari sono quelli che fanno più fatica a trovarsi, perché sono un anno di qua, un anno di là, un giorno di più, un giorno di lì. C'è da loro questa dimensione. In più sono spesso impreparati, non sanno come orientarsi, sono ricattatissimi. Quindi, diciamo, su questo la disgregazione ha un effetto terribile. Allora, io penso che si possono fare, delle forme di opposizione, anche dura, a questa cosa. Però bisogna che qualcuno le faccia, cioè, nel senso che non è una questione che si possono, allora noi quello che possiamo cercare di capire, che vorremmo anche in qualche modo mettere in piedi con questa riflessione un pochino più generale, è anche, senza star troppo a lamentarsi su questo fatto che non ci possiamo vedere fisicamente, va bene, è così, però possiamo anche scriverci delle lettere, cioè non è che è necessario, non è che se non ci vediamo fisicamente siamo fermi, adesso stiamo parlando, prenderemo la penna, scriveremo una lettera, ce la spediremo o faremo, non so, qualche cosa e incominceremo a far circolare e a capire perché e fare patrimonio di quello che insomma c'è, un pochino ricostituire anche una forma di controinformazione e di formazione, di autoformazione, cioè l'autogestione richiede autoformazione, insomma è un percorso lungo, però potrebbe essere diciamo interessante, potrebbe essere un momento, perché sono saltati tutti una grandissima qualità di paletti, insomma, il re in questo momento si cammina nudo e con i soldati, però è chiaro questo, ecco. Tommaso, sì. Tommaso, così brevemente, perché anche perché sì, volevo semplicemente dire che come forme di picchetto trapiantato nella scuola, effettivamente, giusto per non chiudere con questa tristezza nel cuore, effettivamente, per esempio, già quando qualche anno fa era stato considerato illegale come interruzione di servizio e quindi con delle conseguenze legali pesantissime per chi lo faceva, l'interruzione degli scrutini, che è il blocco del pubblico servizio con tutto ciò che ne consegue, in verità ormai 5 anni fa i precari nelle scuole avevano trascinato addirittura, ad un certo punto erano riusciti a trascinare addirittura la CGIL a dare una forma di copertura. Era stata la prova della CGIL in maniera molto timida per ispezioni orari, e invece era stata assicurata dai sindacati di base, e aveva permesso a 4 pasdaran in ogni scuola di creare dei notevolissimi casini all'interno della gestione proprio di un momento fondamentale anche per il raccordo con le famiglie, come quello degli scrutini. Per cui, vero, effettivamente, cioè, i mezzi, le modalità ci sono, però bisogna appoggiarsi al coraggio e alla determinazione dei singoli all'interno delle scuole, che devono costituire all'interno delle scuole in maniera anche trasversale. In questo momento mi vengono in mente dei colleghi cattolici che non so come dire, sono molto distanti dal nostro immaginario, e che però, odiando il capitalismo della sorveglianza e rendendosi conto che la didattica così è merda, possono essere coinvolti in forme che non siano l'occupazione, no? Che non siano lo scontro diretto con l'autorità sotto le bandiere rosso-nere. No, e quindi in termini ottimistici noi dobbiamo ripensare alle forme di lotta, cercando di sgamare le possibili pieghe che, basandoci sul nostro coraggio, non ci mettono in posizioni di totale eliminabilità, perché il problema è che se un'iniziativa del genere viene presa da un solo docente in una scuola, quel docente, che sia precario, che sia di ruolo, con i mezzi che hanno adesso i dirigenti, è finito. Okay? Quindi il problema è creare aggregazione sul posto e usare la propria fantasia per rompere i coglioni. Fa più la determinazione della copertura sindacale. Io questo lancio come messaggio di fiducia nelle possibilità rivoluzionarie future. E finisco ringraziandomi, perché già questo è un momento, per quanto in contumacia, è un momento rivoluzionario. Davveri carburari, come siete voi proprio in presenza. Grazie. sono di nuovo Martino. Volevo fare ancora un intervento, considerazione, proprio su queste ultime cose qua che sono state dette. Per cui mi vengono poi alla mente anche momenti di, appunto, della mia vita studentesca, e con le ultime parole che ho sentito adesso, quando si è parlato di autogestione. Cioè, noi l'autogestione, mi ricordo che a scuola l'avevamo fatta, era una cosa che era nata dagli studenti. Però oggi secondo me si potrebbe fare un passo in più, perché deve essere un'autogestione condivisa, nel senso che devono essere d'accordo gli studenti, i professori e le famiglie, fondamentalmente. Che poi, se nel caso qualcheduno non se la sentisse, non volesse, si possono fare anche le lezioni a distanza, per capirci. Però che la scuola, che non permettere che ci chiudano la scuola, in poche parole. Dire, se uno non vuole andare a scuola, ok, va bene, c'è sempre la possibilità di fare la lezione a distanza. Ma noi professori o noi alunni, voi vogliamo che lo spazio della scuola, insomma, sia uno spazio tutelato, vissuto, così come lo sono i supermercati, non si capisce perché uno non può andare a scuola. Cioè, mettiamo dei limiti di persone, tutto al più, mettiamo, non si può più di 10 persone per classe, va bene, cioè, si può venire incontro anche alle esigenze che dicono i nostri rappresentanti politici, però assolutamente direi di non lasciare che passino il segno, perché hanno già abbastanza esagerato, per cui bisogna cercare un po' di mettergli dei freni e soprattutto cercare anche sul loro campo di gioco, quindi vuoi la sicurezza, vuoi questo, vuoi quell'altro, dici vabbè, la sicurezza la possiamo fare lo stesso, se è da misurare una temperatura, da mettere una mascherina, anche si potrà sempre fare eventualmente. E poi soprattutto comunque sia cercare di affrontare poi nella scuola, secondo me, i temi importanti di oggi. Quindi, cioè, sospendere un attimo le normali attività, diciamo, le normali attività di insegnamento, almeno dedicare più tempo alla lettura della realtà, dell'attualità, no? Cioè, per capire in che situazione storica siamo, in che momento storico stiamo, che cosa sta succedendo, la lettura dei giornali, per dire, leggere qual è il messaggio che ci viene trasmesso costantemente, la lettura dei dati, quello che è la realtà dei dati, della situazione epidemiologica, anche col resto del mondo, no? Perché io sono anche di origine messicana e ho viaggiato parecchio, quindi ho anche contatti con altre parti del mondo, e quando vedo ad esempio la vita che c'è adesso in Svezia, che è in Europa, e vedi che la gente vive normalmente, e poi tu qua in Italia vedi che la gente vive con la paranoia di tutto, cioè dici, ma com'è possibile? E ho anche vissuto adesso da poco recentemente in Svizzera, e anche lì vedi, ho passato il confine a maggio, lavoravo in un supermercato qua a Genova, quindi mascherine, guanti, anche nel viaggio è stato tutto mascherina, guanti assolutamente, cioè veramente, e passando il confine era come se scomparisse la malattia, cioè all'improvviso non c'era più niente. E quindi, per dire, appunto, la percezione che uno ha è perché comunque veniamo indotti attraverso prima il sistema mediatico e poi attraverso anche il comportamento di tutti gli altri che ti condizionano a vivere in un determinato modo, e quindi è importante molto all'interno della scuola far capire queste cose qua, perché la gente, soprattutto i ragazzi, non se ne rendono, secondo me, alcuni sì, alcuni no, ma anche tra i grandi, perché purtroppo c'è una manipolazione così grande che è veramente importante, partendo dalla scuola, dare una visione alternativa, cioè almeno metterla in discussione, non prendere tutto per buono assolutamente, mettere tutto in discussione, e poi per dare una visione nuova alla società e una visione alternativa, un po' smascherare un po' ancora di più questo sistema, perché purtroppo vedendo le persone per strada, uno si rende conto che vivono tutti, appunto, con questa paura, con questa cosa che è in parte motivata, ma in parte no. Cioè, quindi, cioè, cercare un po' di ristabilire un po' il senso, il contatto con la realtà e con il mondo allo stesso tempo, cioè anche vedere al di fuori, una lettura generale di come vanno le cose nel mondo, non chiuderci solo nella nostra piccola realtà italiana. E niente, volevo fare queste riflessioni, e se avete qualcos'altro da dire, volentieri, io finisco. Lascio aperto il microfono così, tanto lo stesso. io ho una piccola... No, c'è un ritorno. Il nostro microfono. Ok, ok. No, niente, una piccola considerazione, visto che insomma mi sembra che stiamo andando verso la chiusura, però non metto limiti almeno per quanto mi riguarda. No, io su questa cosa della pandemia, per carità, sono d'accordo con quello che dice Martino, e purtroppo noto che non si è fatto in questi 2 mesi di presenza, 1 mese e mezzo diciamo buono di presenza, almeno a scuola media, e non si è fatto molto di ragionare su almeno per quanto mi riguarda, per quello che pensavo io, di ragionare su quanto è accaduto. Un minimo si era fatto, diciamo, durante la didattica a distanza, almeno io l'avevo fatto con qualcuno, ovviamente non con un ragazzino autistico, però l'avevo fatto con chi era in grado, insomma, un po' di reggere il discorso. Però un piccolo dato, visto che tu, Martino, parlavi di dati, lo volevo dare, perché io ho una formazione scientifica. L'altro giorno mi è venuto un po' sto sfizio, siccome si dice da tanto tempo, però non l'avevo mai verificato, e di andare a guardare il rapporto tra il numero dei deceduti e rispetto alla popolazione. E si dice già da un bel pezzo che la Lombardia come regione sia una messa male, no, da questo punto di vista, di questo rapporto. Io ho fatto dei confronti, effettivamente in Lombardia ci sono circa 180 morti ogni 100.000 abitanti. 180 morti ogni 100.000 abitanti. Per fare un esempio, gli unici 2 stati che come ordine di grandezza sono paragonabili sono il Perù e il Belgio, che hanno rispettivamente 106, secondo i miei calcoli che sono approssimativi, non sono precisi, però tanto per capirsi, 106 e 105 secondo appunto i miei calcoli. Gli Stati Uniti, che sono invece lo stato che ha avuto il maggior numero di morti fino ad oggi, hanno un rapporto appunto tra numero di deceduti e numero di, insomma, popolazione rispetto a 100.000 abitanti di appena 70. La maggior parte dei paesi europei, tipo anche la Svezia, perché ho fatto anche la Svezia, ha 60. Quindi, voglio dire, sì, è vero quello che dici tu, che in parte c'è, si possono fare dei confronti anche sull'idea che ci sono altre malattie che uccidono di più, no? Ad esempio, che so, i tumori, piuttosto che le malattie cardiache, l'inquinamento, no? L'inquinamento che è sicuramente uno dei fattori di mortalità, oltre che di invalidità principali. Però la situazione quantomeno lombarda non è così da sottovalutare, cioè nel senso che effettivamente la tragedia non è che è stata, cioè è stata probabilmente la, cioè continua ad essere al primo posto nel mondo come regione, come numero di deceduti, e andranno ad aumentare, perché il dato qui nella frazione, il denominatore, che è il numero di abitanti della Lombardia, rimane fermo, mentre il numeratore, cioè il numero di deceduti, continua ad aumentare. Quindi questo rapporto aumenterà ancora di più. Certo, aumenterà anche quello degli altri stati, si può fare il confronto. Quindi io non starei troppo a ragionare sul fatto che diciamo, l'infodemia, la paranoia instillata c'è stata. C'è magari anche il tipo di comunicazione, il tono della comunicazione non è molto paternalistico, ad esempio tutto sommato il nuovo, diciamo, la nuova modalità di confinamento è più è un po' più responsabilizzante, quantomeno perché dà anche degli spazi maggiori. Anche io stamattina sono uscito, mentre quando ero uscito le volte scorse anche solo per andare al supermercato immediatamente avevo beccato i posti in blocco. Stamattina non ho visto neanche mezzo. Però però allo stesso tempo non, cioè non insisterei troppo sul negarla, no? sul ridimensionarla. Piuttosto, dicevi un'altra cosa che però ora mi è sfuggita, magari altri stati, appunto la Svezia, la stessa Svizzera, non lo so, hanno scelto magari modalità diverse, non hanno voluto chiudere, però anche lì ci sono pressioni dell'economia, la lobby dell'economia è molto forte, l'abbiamo visto qui in Lombardia a Bergamo, no? Nella Val Seriana, eccetera, eccetera, dove hanno continuato a lavorare. Invece mi volevo concentrare, perché secondo me c'entra, ritornando un po' alla scuola, due cose. Uno sul discorso dell'attualità. Allora, scuola media è un po' più difficile, però ti assicuro che io lo faccio, perché poi faccio insegnante di sostegno, ma avendo ad esempio una laurea in geologia e poi sono anche un appassionato di geografia, ho dei colleghi con cui lavoro da tanti anni, mi fanno fare spesso anche geografia, faccio educazione ambientale, insomma, quindi mi occupo di problemi di attualità, però io sono d'accordissimo che soprattutto alle superiori bisognerebbe lavorare molto molto di più sull'attualità, no? Cioè di andare ad analizzare, magari di partire dall'attualità per tornare indietro, ad esempio rispetto alla storia, piuttosto che fare il contrario. E un'altra cosa era, che volevo dire, il discorso del condizionamento, cioè il fatto che comunque gli altri comportamenti ci condizionano. Ma quello sono d'accordissimo, che io sono dell'idea che ad esempio una delle cose che bisognerebbe fare di più a scuola è un'educazione sentimentale, un'educazione alle emozioni, anche ai comportamenti, alle relazioni, come dicevo prima. Perché queste sono cose, come dire, antropologicamente, come dire, che ci connotano. Noi siamo fondamentalmente degli animali emotivi. Andrea mi ricorda sempre che io lo chiamo il pre-politico, no? Cioè, secondo me questa parte della pre-politica, dell'antropologico, come formazione di cui si parlava appunto, è fondamentale per i ragazzi, è fondamentale, cioè essere consapevoli. Per una responsabilizzazione serve una consapevolezza, però sempre ritorniamo per quel discorso che attenzione a dare alla scuola un po' troppi compiti, perché sennò si fa la fine dei medici e degli infermieri, che siamo eroi, no? Però eroi, e mi riallaccio a quello che si diceva all'inizio, che il discorso che la cura ci si può rivoltare contro come un boomerang. Quindi, cioè, va bene la cura, fa parte della nostra professione, ci piace, però c'è anche il conflitto, cioè la cura non va imposta, ed è una cura autogestita secondo nostre modalità e secondo i vari casi. Quindi, anche riprendendo Giada, rispetto a mettere troppi paletti che arrivano dall'alto, poi non c'è tanto spazio di movimento. Quindi, cioè, tutti i discorsi rispetto appunto alle relazioni, che sono appunto pre-politica, rispetto a una consapevolezza che poi ti porta, e anche il senso critico, no? Quello che si dice tante volte in dei discorsi che purtroppo rischiano di peccare di retorica, che la scuola dovrebbe incentivare lo spirito critico, no? Di analisi della realtà, dei testi e di quello che ti accade, no? che ti accade dentro. Bella. Non so, se non ci sono altri interventi, forse possiamo anche andare in chiusura. Abbiamo superato le 2:20, per cui sarà un podcast lungo. Vi ringraziamo e speriamo di avere questo incontro fisico. E scriviamo delle lettere, come diceva Tommaso. Bravi, anche noi grazie. Grazie mille, veramente grazie mille per l'ospitalità, e speriamo oltre che di vederci di persona, avrete nostre notizie per iscritto. Non è una promessa, è una minaccia. Va bene, va bene. Grazie. Ciao. Ciao.